Il punto di Stefano Folli. Sul piano logico non può durare a lungo un assetto di governo in cui uno dei maggiori partner della maggioranza ha subito condanne per complessivi 11 anni di carcere. Quindi è ovvio che qualcosa cambierà e nel profondo dopo la sentenza di Milano, ma al momento la situazione è ingessata. Berlusconi non è un politico qualsiasi, è un leader ventennale che è stato votato 4 mesi fa dal 30% circa degli italiani e che ha il sostegno totale del suo partito. D'altra parte lui stesso non intende rovesciare il tavolo, perché dovrebbe? La sua strategia è ancora quella di uscire con successo sia dal processo Mediaset sia da quello Ruby, e la sua reazione alla sentenza è quella di un imputato che guarda al secondo grado, all'appello, così come per Mediaset guarda alla Cassazione, che deciderà entro l'anno. Certo, è una storia senza precedenti, difficile da spiegare all'estero e anche a noi stessi. Ma quello che è accaduto ieri a Milano non è ancora l'espulsione per via giudiziaria di Berlusconi dalla vita nazionale, e se lo fosse saremmo di fronte a una destabilizzazione ancora più grave.